DMR, però lo sto provando in questi giorni, l'ho provato anche in 40, in 80, in 20, in 15, in 10, però stavo provando, volevo che andasse bene anche in AM, sono riuscito a trovare un set, perché è un casino, guarda che non ti dico roba, è un casino, giorni e giorni interi a entrare nel menu. Tu figurati che c'ha 400 memorie e 280 passaggi di menu, vedi tu. Cos'è questa cosa? Sì, sì, stai andando benissimo, roba, non c'è problema. Alla grande. Ok, vediamo se c'è Emanuele. Guardatelo, ma mi hai detto che lo conosci tu, poi sei un esperto in materia. Questo è completamente un computer parlante, nel senso che si attacca al vecchio DB9 dietro, agli stessi attacchi del computer, puoi vedere tutto via computer, fare tutto via computer, perché non avendo VFO chiaramente cammina con i vari set che tu gli dai, sia in analogico che in digitale, capito? Avanti, Emanuele, ci sei? No, Luca? Poi chi è rimasto? Tu, Antonio, e poi chi c'è? Capa, ci sono io, ci sono. La cosa lo sento, ma lo sento un sibilo, perché c'è il QRM troppo alto, mentre c'è qualcosa che mi sta girando le palle, mi sta dando fastidio. No, io di QRM c'ho zero, Antonio. Evidentemente nella tua zona c'è qualche interferenza sicuramente, non lo so, vabbè. Poi chi è altro che ci è rimasto? Non c'è più nessuno, va bene, va bene. Meglio soli che male accompagnati, diceva quello. Però, devo aver staccato il proce, perché non mi convince la spinta del microfono. Vediamo un po'. Ora. Forse adesso sta spingendo di più. Ha voglia. Non lo so, non stava spingendo, forse ho toccato qualcosa. No, è settato così, Robè, non è che posso... Che posso fare molto, aspetta, abbasso piuttosto abbasso la potenza, perché sicuramente l'avevo sollevata e dovremmo andare a tirare, adesso è a media potenza 25 watt, dai. Troppo amplificata, e l'abbiamo settata con Gianfranco, mi ha detto lui che andava bene così, per cambiare i parametri è un casino, adesso devo riattaccare il computer, fare nuovamente i settaggi, boh. Da me va benissimo. Vabbè, magari tu, Robè, stai ascoltando con una radio di quelle professionali, quindi magari troppo, la senti un po' troppo spinta, ma guarda, come livello microfonico non sono neanche al 50%, sono al 30%, devo arrivare al 100%, la potenza è minima e quindi penso che vada bene, dai. No, non è a questo FM, Robè. C'è USB, LSB e M, è una radio americana, è fatta esclusivamente sia per livello amatoriale che a uso civile, quindi non è FM. KK, va bene che va bene. Lugarie, riprendi. Ehi, guarda che te l'ho mandata su WhatsApp, te l'ho mandata. Adesso vediamo come ti ascolti, per me è perfetta la modulazione. Aspetta che me l'ascolto, perché ti ripeto, adesso settarlo nuovamente è un casino, devo allungare i cavi, attaccarlo al computer, mamma mia, sono stato 3 giorni, mi giacera Giulio, cazzo, per carità. Quindi ho trovato una via di mezzo, anche se è molto spinta, cerco di parlare piano, però lo lascio così, dai. Aspetta che mi ascolto, tu. Ok. No, perfetto, tanto va bene, la solita radio dell'MC60, dai, niente di più. Buona, vero? Ottima, bella, bella forte, bella chiara, la solita radio mia, dai, con 60 la modulazione è questa, non è che cambia molto. No, a me piace molto, piace, anzi, vieni buziani, con questi buzi baccavanni la radio, vivoni, sentarecci, vivoni, nel coso, nel baracchino, ci vogliono 100 orecchie, se ne fossero così, tutti i giorni. No, tu lo sai, io ho sempre curato la parte microfonica, perché è molto importante, non è che poi... uscire male, cioè a me non piace uscire male. Se uno ti deve ascoltare, deve ascoltarti bene, quindi è chiaro che io ho fatto mille prove anche con le casse di computer, perché puoi sentirti anche nelle casse di computer, puoi regolare, cioè il voice esterno, capito? C'è un sacco di cose, quindi ho detto, ma se la regolazione è questa, poi Giulio col 440 mi ha detto di lasciare così, Gianfranco lo stesso, qualche un altro lo stesso, evidentemente va bene, non la tocco. Ottimo per la truppa. Se rivendi poco forte, no, che già. Guarda, tanto di portante mutta c'ho 25 watt che è la potenza minima, sul parlato va intorno ai 40, perché c'ha dei picchi positivi, però li sto guardando sullo strumento esterno, sulla T230 della Kenwood, perché in digitale non si muove neanche, lo Smith non si muove neanche, tutto digitale, quindi non si muove, però la lancetta dei watt sullo strumento esterno si muove, quindi va da 25 a 40 modulati, e questa è la potenza minima, c'è la minima, la media e la massima, è 25, 50, 120. Infatti qua sei quasi a fondo scala, sei quasi 9,30. È una bella radio, se vuoi ti mando la foto, è una bellissima radio, io non ho mai avuto esperienza di questo genere, soprattutto con l'DMR, soprattutto con questo tipo di radio così professionali che non ce n'è, tu immaginati che se entri con un microfono troppo amplificato ti manda la modulazione in distorsione, io i filtri li ho messi larghi come mi ha detto Gianfranco, ma quando l'ho accesa, l'ho attaccata il primo giorno, aveva i filtri stretti, non capivo una minchia, proprio niente. Non capivo solo chi usava Marco, chi usa il microfono normale, poi chi c'era, qualche un altro, non mi ricordo, però quelli col microfono amplificato non capivo niente, allora sono dovuto entrare nuovamente nel menu e mettere i filtri larghi. E cappa. Va bene, cazzarola. Non so quanti anni può avere questa radio, neanche 10 anni, è modernissima. Diciamo tu come funzionamento sono molto moderne, nel senso che sono digitali, hanno tutta la parte proprio digitale, sono radio particolari, adesso te la mando. Come modello c'è il modello superiore a questa che ce l'ha Gianfranco, io ho il 950 6000, lui penso che abbia il modello uscito dopo, il 2020 2021, non mi ricordo. Comunque il modello è uscito dopo, ma diciamo che i funzionamenti di queste radio sono molto molto simili, perché sono radio a livello militare, capito? Sono radio a livello militare. Hanno una sensibilità, una capacità sia in trasmissione che in ricezione veramente molto molto seria, veramente molto seria. Io non avevo mai apprezzato una cosa del genere perché non ho mai fatto l'esperienza, adesso la sto facendo e ti posso dire che veramente è una bella esperienza, hanno tutto, tutto ciò che serve. Vabbè, è molto più moderna, una radio tipo militare, cioè professionale, diciamo, c'è una cosa seria, sono belle quelle cose, che marca è? Non me lo ricordo adesso. È un Barrett SSB 950, adesso ti mando la foto perché l'ho fatta proprio stamattina, te la mando in due versioni, accesa e col frequenzimetro a parte, perché è talmente grande, bella, illuminata e favolosa, è grande, non è, è praticamente un base, un veicolare fatto a base, te la sto mandando, guardatela, è veramente molto molto bella. Minchia, questa cosa qua è... Eh sì, guarda, ti dico solo che penso che in Sardegna ce l'abbiamo solo io e Gianfranco questo tipo di radio. Io avevo un buon ricattucci, ma... un pochino, io l'ho presa praticamente, me l'ha fatta avere Gianfranco, usata, però è impeccabile, è nuova, c'ha due attacchi microfonici, uno da una parte c'ho l'MC60, dall'altra c'ho il microfono normale, capito? Come vedi nella foto si vedono si fermano due attacchi. Vabbè, uno c'è il tappo, perché però c'ho due microfoni direttamente collegati. Guarda la frequenza, ti segna la frequenza, SIG vuol dire segnale, tutto in digitale. Guarda, non ha nessuna manopola, nessuna manopolone per spostarti, guarda. Le vedi le frecce? Sotto e sopra, frequenza. Tutto lì devi fare, e poi devi stare attento a non toccare tutti gli altri pulsanti, perché ogni pulsante ha una funzione. Appa. E dove lo segnala il segnale di che ci arriva? Dove c'è quel SIG, quello lì? SIG vuol dire signal, frequenza, 27.75 con 3 decimali, non con 2, quindi guarda la professionalità, quindi ti dà anche il decimale proprio, se sei a 001, 002, proprio ti dà gli hertz finali, capito? Ti dà anche gli hertz finali. Il segnale, quello che te l'ho fatto, vedi, SIG, quello è il segnale tuo, 2, 4, 6 barre, sì, praticamente 9. Cavolo, 9, tondo tondo 9. Sì, quello è segnale 9, poi quando parli lampeggia, quindi potresti essere un 9,5, 9,10, ma su Kenwood mi arrivi 9,5, quasi 9,10, quindi, però quello lì essendo digitale, Anto, è sicuramente molto più preciso, capito? Ah, K. Ho fatto delle migliorie, ho fatto adesso. Di radio forte sono buono. Non è grande, radio buona, 5 perfetta, è piaciuto molto anche a Gianni Doppio, a lui le piacciono queste radio tutte illuminate, tutte particolari, ma è proprio molto bella. Va bene. Non so quanto è, ma ci vuole un po', sicuramente. Sicuramente bisogna studiare pure chi sa radio. Ci sto lavorando tanto un po', perché la parte praticamente che serve a me, diciamo le HF, le cose, c'ha 400 memorie, 285-86 passaggi di menu, quindi è molto molto complicata. Poi c'ha il GPS, quindi ti dice anche latitudine, longitudine, che altezza sei, capito? Ti dà tutta la parte, c'ha il CW incorporato, il cicalino direttamente incorporato, c'ha tutto quello che può servire, insomma, a me, nella parte amatoriale, ma ti ripeto, io proprio su quello non è che mi interessi più di tanto. L'ho voluto fare un'esperienza, come ti ho detto prima, perché non avevo mai avuto una radio a questi livelli. Va bene. Cappa. Sicuramente chi sta facendo un po' di cose, base. Fa tante tante cose. Ma già si vede che è una bella radio. Tutto, ti dico solo che l'attacco principale, che è quello di sinistra, dove tu attacchi il microfono su originale, è quello. L'altro attacco, puoi attaccare un altro tipo di microfono, anche se non è della stessa marca. Dietro c'è l'attacco dove io digito il numero con la tastiera del telefono e parlo direttamente da quella radio al telefono, capito? E ha già compreso, dai. Puoi usare anche come telefono, se c'è fa tutto. Fa tutto veramente, io non avevo mai avuto questa cosa di poterlo usare. Mi ha messo un po' nel mondo di quel tipo di radio lì, mi ha messo Gianfranco, ed è veramente molto molto interessante. Aspetta che... un pochino la potenza. Va bene, quindi non c'è rimasto altro nessuno qua. Non so se c'è quello di Alghero. Roberto, non lo so, non ho ricevuto un messaggio, vediamo chi è. Ah, sei sempre tu. Gappa. Sì, ho tutto. Siccome non si sentono più quei canali là. Ma questo c'è il sistema, capito? C'è il sistema anche di crippaggio, capito? C'è il sistema anche di crippaggio, no? Tu li senti tutti, io invece c'è un, un sistema, non aprire, c'è un sistema dove li sento bene, capito? Me li codifica, c'è il decodificatore anche incorporato. Capito perché è bella? Sto vedendo che fase di indotto, aspetta che hanno suonato. Vedi, quella può interessare anche a me. Quella può interessare anche a me, però che vi vuole un poco di gattucci. Audio. Hola, Claudio. Ehi, Antola, ti devo salutare che è arrivata mia figliola finalmente dal QRL e poi deve andarsene a casa sua. Ci sentiamo, Antola, ok? Salutami sempre a Babbo quando lo vedi, un abbraccio, grazie alle due chiacchiere e alle prossimine, va bene? Quindi lasciamo tutto così, scherreggia? Dieggia, drudieggia, tranquillo. Capito quello che ti stavo dicendo? C'ha tutto, c'è anche il decodificatore, quindi decodifica ciò che può essere crippato, poi te lo spiego in un altro momento, vai. Va bene, c'è anche le frequenze marine, le frequenze navali, c'è tutta la parte anche ad uso civile, quindi te lo spiego diversamente, vai. Ok, Anto, ciao, buona cena, buon tutto, grazie alle due chiacchiere, va bene? E dei controlli, ciao. Ciao, buonasera, ce la risentiamo. Pure io sono contento che siamo riusciti a risolvere certi problemi qua, cazzo, che non mi andava tanto bene. Ok, dai, ce la risentiamo, ciao. Ciao, Antonio, tocca se che stai andando benissimo. Ciao, Robè, un abbraccio anche a te, salutami tutto Alghero, devo andare a cenare che è arrivata la mia figlia, ciao.